English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera affrontiamo un tema che a me e Giulia piace particolarmente. Giulia è anche molto esperta, sicuramente più di me, la moda. Ma la moda da un punto di vista particolare, perché sempre di più le celebrità si lanciano in questo mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Questa volta è ancora più particolare la questione, perché non è una celebrità ma la figlia di una celebrità. Madonna parla della nuova linea di moda firmata da sua figlia Lourdes, il servizio che stiamo per ascoltare di Access Hollywood. She's seen lots of pictures of me around that time and she's like, oh my god, mom, you used to dress so cool. Wonder where she gets that from. It's Madonna more relaxed and at ease than we've ever seen her, and for good reason, as she's teamed up with her firstborn 13-year-old Lourdes to launch their new baby together, a junior clothing line aptly named Material Girl, which will be available at Macy's in September. When she's choosing her own wardrobe for when she's going out or going to school or whatever, I have a lot of input. But when it comes to designing the line, it's pretty much her point of view. Thrift shops and, you know, taking bits and pieces from all of her favorite stores and then stealing stuff from my closet, and then she creates this look. I think it's in the DNA. I think it's the DNA, è nel DNA, lo dice subito Madonna, che parla di sua figlia, appunto, racconta di questa nuova linea firmata in questo servizio, nel quale lei spiega che effettivamente non esiste, come noi che pensiamo subito male, potremmo dire, un team di stilisti che ha creato questa linea e sua figlia ci ha appiccicato il nome. No, perché Lourdes, detta Lola, è proprio interessatissima alla moda, anzi è anche curiosa di vedere come sua mamma, che è stata un'icona e che lo è in parte tuttora, si vestiva. Infatti Madonna dice she's seen, e qui usa quella formula, quindi she has seen lots of pictures, quindi implica anche, come sappiamo, che non è una cosa che le è successa oggi, ma è parecchio tempo che guarda queste foto, around that time, cioè i famosi anni 80, e tutte le volte le viene da dire oh my god, mom, oddio mom, che è scritto M-U-M ed è un po' un modo più affettuoso di dire mamma. Si può anche dire mommy, mom è una via di mezzo tra mom e mother. You used to dress so cool, cioè una volta eri solita, letteralmente dovremmo dire, eri solita vestirti in modo così fico, e naturalmente potremmo ti vestivi in modo così fico. Insomma, alla figlia piace molto la sua mamma degli anni Ottanta. E poi c'è la giornalista di Access Hollywood che spiega un po', appunto, il fatto che Madonna ha fatto una sorta di team, una sorta di squadra. To team up, un phrasal verb, vuol dire appunto mettersi in squadra con qualcuno. Quindi con her firstborn, cioè la sua primogenita, e così they launch their new baby together. La chiama addirittura new baby, cioè una, come se fosse un bambino. È appunto una cosa che hanno partorito insieme. Tra l'altro, come spesso accade nel caso di queste celebrities che lanciano delle linee, vengono poi vendute nei grandi magazzini. Sì, questa è la grande distribuzione americana, è diversissima da noi, cioè in America non ci sono questi bei negozi multimarca che abbiamo noi, ci sono però i department stores, i famosi grandi magazzini, che sono in generale molto, questi almeno alcuni sono divisi in realtà per categorie, ma alcuni come Macy's sono appunto di livello medio alto, e perciò per lanciare una linea in grande stile, sapere, avere la certezza che sarà da dovunque, Macy's è l'ideale. Madonna racconta un po' qual è il rapporto con la moda di Lourdes anche nella vita di tutti i giorni. When she's choosing her own wardrobe for going to school, quindi quando si veste per andare a scuola, I have a big input, cioè io posso dire la mia. Però when it comes to this new line, well, there's pretty much her own point of view. Quindi secondo Madonna è lei che sceglie. Lei non si interessa molto del parere della mamma, ma si interessa, e come darle torto, del guardaroba della mamma. Sì, e fa una cosa che in generale si fa con i fratelli o le sorelle maggiori, almeno a me capitava, cioè she takes stuff from my closet. Stuff vuol dire cose, roba, e vuol dire anche imbottire, però in questo caso vuol dire prendere cose, appunto. Quindi Lola va a saccheggiare sostanzialmente il closet di Madonna, l'armadio di Madonna, poi dopo mischia tutto e quindi alla fine it's her own, cioè è la sua creazione, but it's also influenced by Madonna's closet, potremmo dire. E poi vabbè, questa cosa del DNA, insomma, pensano di avere il gene della moda, chissà se esiste. Ma sentiamo un estratto di un'intervista che Madonna ha rilasciato proprio su questo argomento ad Alicia Quarles della Associated Press. Of course, I have a lot of friends who are clothes designers, whether it's Gautier or Dolce & Gabbana, and she's been around all the shoots that I've done, all the campaigns that I've done, every time I do a tour, she's, you know what I mean? She's always hanging out backstage, and then the last few tours I've done, she's been kind of working in the wardrobe department. And on this last tour, she dressed all the dancers. No, she did not. Yes, she did. Every night. Go ahead, girl talent. Yeah. She reminds me a lot of me when I was younger, because she just goes for it. And I like the fact that she just looks like she just threw everything together. Io devo confessarlo, questa coppia madre e figlia mi sta particolarmente simpatica. E c'è un aspetto che sottolinea Madonna: chi fa il mestiere dei genitori, o chi ha seguito in un certo senso il mestiere dei genitori da vicino, già un po' ha l'idea di com'è il mondo che lo aspetterà. Sì, poi Madonna appunto dice I know lots of, come se non lo sapessimo, I know lots of clothes designers. Sapete che in inglese non esiste la parola stilista, cioè stylist, sappiamo che è un'altra cosa, cioè quella figura che decide che cosa si mette addosso una persona, quindi che decide lo style di una persona, non che disegna. Lo stilista è designer, sia che disegni mobili o vestiti. E Madonna dice, whether it's Gautier o Dolce Gabbana, io li conosco benissimo, no? E she's been around, e lei è sempre stata intorno. Anzi, si è già cimentata in un lavoro dietro le quinte, noi non lo sapevamo, sì, Madonna quindi, lo confessa. Quindi è stata su tutti i set, all the shoots that I've done, all the campaigns pubblicitarie that I've done. E poi every time I do a tour, she's always hanging out backstage. Cioè, to hang out, altro phrasal verb, to hang vuol dire appendere, però to hang out vuol dire gironzolare, stare lì intorno, anche, non so, hanging out with the boys, andare fuori con dei ragazzi, hanging out with friends. Però lei invece, Lola, è hanging out nel backstage dei tour di Madonna, e quindi oltre alle tantissime cose che vede anche i cambi d'abito, per esempio. Addirittura nell'ultimo tour si è cimentata lei. Ah, sì, questa è una Madonna molto proud che dice che she went on tour and she dressed all the dancers. E qui tra l'altro Lola cerca di dire la sua e dire ma forse no, forse non è proprio così. Invece Madonna insiste, no, l'hai fatto. E l'hai detto, una mamma molto orgogliosa, e non solo, dice... trovo una certa rassomiglianza con me. Ecco, dicevo con orgoglio. È orgogliosa, però poi dopo gratta gratta cosa salta fuori? Che è orgogliosa perché si rivede, quindi she reminds me a lot of how I was, quindi lei si rivede in questa giovane Lola, perché dice she goes for it. To go for it è un bellissimo verbo americano, anche qui un phrasal verb, che vuol dire provarci, cioè vedere una cosa e provarci, anche se magari sai che non necessariamente sarà un'esperienza positiva, però ti viene da provare. Da buttarti, ecco, si butta, she goes for it, si butta. And that's how I used to be. E anch'io ero così. Anche qui, I used to be, letteralmente dovremmo tradurlo, era così che ero io, invece appunto mi ricorda com'ero alla sua età, forse in realtà quando aveva qualche anno in più. Lourdes è molto giovane, molto piccola, abbiamo sentito parlare solo Madonna di questa linea che hanno firmato insieme, per una scelta molto precisa, perché Madonna non l'ha voluta proprio fare intervistare, sarà la madre a parlare perché la figlia deve occuparsi di altro, ad esempio studiare, ma lo ha spiegato lei stessa. I think you've done really well about keeping your kids out of the spotlight. Well, that's why I'm here talking about the line and she's not. I mean, eventually I will let her, but I feel like she needs to get into high school and just focus on her studies and her lessons. She got into the High School of Performing Arts. She has a lot of work to do. And then, of course, she's inspired by my closet. So, you know, my Christian Dior shoes will go missing, and then some fabulous bag won't be able to find, and then my skinny jeans, that the only pair that fit me, are gone. And then, of course, these fishnets, I had to sew up a hole in them because she stole them the other day and wore them and put a hole in them, and then she put them back in my closet. She does that all the time. I kind of love that. So it's nothing off limits, because my mom would hide stuff from me, like, no, don't go there. I hide them, but she finds them. So I don't know. I don't know what to do. Allora, lo stavo controllando. Lourdes Maria detta Lola è nata il 14 ottobre 1996, quindi è veramente piccola, e la giornalista dell'Associated Press dice fuori dai riflettori. Quindi anche qui, you've done really well, anche qui la forma continuativa, quindi è tanto che lo fa, cioè effettivamente... Sì, Lola da qualche anno ha cominciato ad andare a eventi di charity, eccetera, però non la si vede certo paparazzata in giro, quindi you've done really well, hai fatto bene, ti sei comportata bene, cioè sei riuscita poi, perché to do well vuol dire riuscire a, più che fare una cosa giusta. Keeping kids out of the spotlight, quindi tenere i tuoi figli un po'... Questo non è proprio verissimo, però insomma, out of the spotlight, fuori dal faro dell'opinione pubblica. Perlomeno non li ha già messi su un palco come hanno fatto in tanti, e lei dice, ecco perché sto parlando io di questa linea e non lei. E quindi that's why I am here talking about the line and she is not. E poi dice eventually, anche qui non è eventualmente, questo non è un false friend, vuol dire prima o poi, eventually I will let her, le lascerò il permesso. Anche perché Lola deve studiare, insomma, Madonna fa la mamma qua. Quindi she goes into high school, abbiamo detto che è del 96, quindi appunto la high school americana è il nostro, l'equivalente più o meno, sarebbe un discorso lunghissimo, del nostro liceo, quindi comunque finite le medie, entra nella high school, e tra l'altro una high school un po' particolare di performing arts, quindi che forma o comunque porta verso un percorso artistico, e she has her studies, her lessons, a lot of work to do, quindi forse non le lascerà più disegnare altre lines for Macy's. Dobbiamo tornare a informarci su qual è lo stile di Lola, uno stile già assolutamente adulto e pieno di cose favolose che magari scova nel guardaroba di sua mamma, ad esempio. Sì, infatti inspired by my closet, l'abbiamo visto prima, è proprio più che inspired, è un po' una ladra e va a prendere, proprio a saccheggiare l'armadio della madre, e quindi dice: Madonna, my Christian Dior shoes will go missing. Spariranno, spariscono, and my fabulous bags, le mie stupende borse, and my skinny jeans, sapete gli skinny jeans, ormai li chiamiamo così anche qui, sono quelli proprio aderenti, the only pair that fit me are gone, quindi lei apre il suo closet, questo è un po' difficile da immaginare che Madonna ha un solo paio di jeans che le vanno bene, comunque, e poi l'ultima cosa, le fishnets, che sono, le potete immaginare, le calze a rete. Madonna dice che lei si è accorta che la figlia gliele ha rubate perché ha rammendato un buco nelle calze a rete, mi sembra un po' difficile, però insomma, potrebbe anche essere convincente. Madonna che ha imparato non si sa dove a rammendare, comunque dice I sew up a hole, quindi ho cucito, e questo è un verbo irregolare, to sew, sew, sew, e she stole them the other day. Ma perché? Perché l'altro giorno me le aveva rubate. Perché appunto la giornalista le dice, Alicia le dice, che bello, le fai così, le dai accesso al tuo guardaroba, mia mamma non me lo faceva fare, e le dice no, ma nemmeno io in realtà. Dice, Alicia dice appunto, quindi nothing is off limits, sapete off limits vuol dire qualcosa che proprio non si può toccare. Madonna dice, ma non sarebbe proprio così, I hide them, cioè nascondo le cose che veramente mi interessano, but she finds them, quindi non so che cosa fare, tutto sommato insomma mi sembra il minore dei crimini da parte di una figlia verso una mamma. A me piace pensare che questo rapporto così carino tra madre e figlia sia vero e non un'invenzione degli uffici stampa. Ho deciso che è vero il rapporto tra Madonna e Lourdes, però è anche vero che il nostro tempo radiofonico per questo sabato si conclude qui. Io vi ricordo il nostro appuntamento con English 24 in edicola. Ringrazio Pietro Lacorte in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.